Il telefono, Marzia Stano. Marzia, ci senti? Ciao, ci sono, vi sento. Benissimo, fantastico. Allora, stiamo parlando appunto in questa settimana. Devi sapere che abbiamo una rubrica che si chiama Disco della Settimana. E questa settimana abbiamo scelto Acida Basica Erotica, che è il tuo terzo album. Sì, ma che bello, grazie. Sono felicissima di questa notizia. Grazie a te. Intanto volevo chiederti, come ti è arrivata l'ispirazione per questo disco? Bella domanda. Potevi farmela prima che me la preparavo. Come è arrivata l'ispirazione? Era un bel po' di tempo che non pubblicavo niente di nuovo, diciamo 3 anni. Ho avuto un momento in cui ho messo in discussione anche forse la mia, non dico passione per la musica, perché quella è assolutamente non solo indiscutibile ma proprio fondante della mia persona, però ho messo in discussione il fatto di volerlo fare nella vita come lavoro. Ho perso un po' di motivazione per via dei cambiamenti anche proprio del mondo che mi circonda. Ho cominciato a fare musica a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, c'era un fermento ben diverso, c'era anche forse un modo di comunicare un po' più umano e forse alla mia portata, quindi si sposavano bene la passione della musica e anche le richieste che il mondo, il business musicale poi ti faceva. Era, diciamo, abbastanza, come si può dire, plausibile per la mia sensibilità. Invece poi tutto è cambiato in maniera così vorticosa e così veloce, e travolti comunque da tutto ciò che capitava, in qualche maniera si è andati avanti, fino a che c'è stato un momento in cui mi sono proprio fermata dallo scrivere, dal produrre, e quindi ho potuto ragionare se effettivamente quello poteva essere realmente il mio mondo, il mio lavoro. È arrivata l'ispirazione organizzando tanti concerti e conoscendo tante artiste e artisti attraverso lo spazio che ora a Bologna gestiamo in 4 social, Elastico Fart. Quindi il fermento è forse un po' l'entusiasmo delle band, soprattutto estere, che attraversano lo spazio. Mi ha ridato un po' di gioia, di coraggio e di voglia di mettermi di nuovo in gioco, in discussione, anche appunto assumendomi poi la responsabilità di tutto ciò che ne consegue, quindi fare un tour, essere molto più presente sui social, cosa che io faccio un po' di fatica, però mi tocca farlo. E quella è la parte, comunque, quella del tour è poi la parte più bella. Però ecco, l'ispirazione è nata in un contesto veramente collaborativo, fatto di 1000 stimoli che provenivano un po' da artiste e artisti che hanno attraversato Elastico Fart. Ecco, infatti la mia seconda domanda voleva essere proprio sul tour e soprattutto sulla data che farai qui a Bologna, nello spazio creato da te e alcune amiche, che si chiama Elastico Fart. Ci puoi parlare un pochino della data, che intanto dirci anche quando sarà, così verremo tutti insieme, e anche parlarci dello spazio, che secondo me è molto molto interessante. Assolutamente. Il tour è partito già da una settimana, e avviene nei weekend, poiché sono un insegnante, quindi devo riuscire a incastrare le date con i giorni liberi, che ovviamente sono il sabato e la domenica. E stiamo girando già tutta Italia, abbiamo fatto delle belle date dalla Calabria alla Campania, alla Puglia, adesso ci sarà Lazio, altre 2 province pugliesi, poi ci sarà in realtà Alto Lazio perché facciamo Tocchiamo Viterbo, poi ci sarà Bologna il 17 di novembre. Ho deciso di spostare la data che inizialmente era stata fissata al 24, ma poiché è stata poi conclamata, diciamo, la data della manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne il 24 novembre a Roma, ho voluto spostare la data del concerto anticipandola al 17, perché voglio assolutamente partecipare alla manifestazione, anche proprio a livello simbolico, a livello fisico, perché questo disco Acida Basica Erotica è un disco assolutamente vicino alle tematiche che possono essere appunto la violenza di genere, ma non solo, anche di tutte le altre minoranze. Infatti noi nella pillola del disco della settimana di oggi abbiamo parlato di Marie, che è una canzone appunto sul femminicidio, e poi nel tuo album tratti dei temi molto molto importanti. Qual è quello che ti sta più a cuore delle 9 tracce del disco? Ma sono 3 brani assolutamente scelti nell'arco dei 3 anni per ogni, scusami, 3 brani per ogni anno che sono stata ferma, quindi capirai bene che c'è stata una selezione incredibile, perché comunque in 3 anni ho scritto tanto, però poi sono andate a finire su questo famoso nastro Telefunken, poi ho deciso di registrare questo disco in analogico, soltanto 9 tracce, che in 3 anni insomma è una... un po' un condensato. È un condensato, quindi non c'è una traccia per me più significativa di un'altra. Sono dei capitoli che io ho voluto appunto memorizzare e pubblicare, e l'ho immaginato come un disco molto visivo, quindi come 9 puntate di una miniserie. Sono un'appassionata di Black Mirror, quindi ci ho tenuto a raccontare e narrare eventi e cose che fanno parte del nostro quotidiano, che però spesso passano molto in secondo piano, e quindi io, che con la vita che faccio, purtroppo dovendo fare almeno 3 lavori per permettermi di fare la musicista, che in questa fase della mia vita è più un lusso che un agio, e diciamo che ho voluto, anche per una questione mia proprio di coscienza personale, mettere dentro questi brani tutta la mia carica di attivismo e militanza, perché la mia forma di militanza è comunque una militanza che ha scelto il canale dell'arte e della musica. Non so se ho risposto bene alla tua domanda, forse ho divagato un po', ma mi sembrava assolutamente utile. Sì. E una, hai mai pensato che i pezzi che hai scartato, fra virgolette, magari un giorno verranno alla luce in un nuovo album, o pensi di non farlo, diciamo, dei pezzi che hai accumulato in questi 3 anni, di farne qualcosa in futuro? È interessante come domanda, perché sì, in realtà ci sono dei brani che sono rimasti fuori dal disco che mi piacerebbe pubblicare tanto. Adesso vediamo come ne usciamo da questo, però mi piace fare passi un po' per volta e vedere cosa accade, vivermi il presente. Ok, grazie mille a Marzia, in alte una, e rilanciamo l'appuntamento per Elastico Fart al 17 novembre per il concerto che terrai qui a Bologna. E adesso, tra tutte le canzoni dell'album, ho scelto quella un po', forse con il tema un pelino più leggero, diciamo, che è l'amore. Quindi adesso farei partire Ti vedo in ogni cosa, che è una canzone che tu hai dedicato alla tua compagna, giusto? Assolutamente sì, è forse la canzone d'amore che mi è riuscita meglio in tutta la mia vita, perché almeno è un amore che è ancora in essere, quindi è assolutamente... perché di solito scrivo sempre canzoni d'amore che vanno a finire male, quindi sono così fiera di questa canzone che posso dedicarla a tutte le coppie felici, ma anche non solo le coppie, anche le troppie, cioè gli amori triangolari, quadriangolari, perché l'amore è uguale, universale per tutti i tipi di relazione, quindi voglio dedicarla alle persone felici di essere insieme. E noi la dedichiamo a tutti, salutiamo Marzia e ci andiamo ad ascoltare Ti vedo in ogni cosa. Ciao, grazie per essere stato a Fujiko Factory. Grazie. Ciao.